140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. I leggendari Alan Clark e Phil Palmer insieme a Marco Caviglia. L'eredità dei Dire Straits con il progetto Legacy. Ora l'album Three Course Trick. Over the last six years, Marco has gradually got. Negli ultimi sei anni Marco ci ha coinvolto in una serie di concerti come Dire Straits. Ci siamo evoluti mano a mano in una band con la sua propria identità e per questo nell'ultimo anno abbiamo realizzato un album. That's why we've made an album over the last year, which has been a wonderful experience. È stata un'esperienza eccezionale. Il futuro della band sarà sempre più Legacy senza Dire Straits. Marco, tu come sei stato coinvolto in questa costola dei Dire Straits con altri grandissimi musicisti? Perché insomma i nomi che compongono questo progetto Legacy sono molto pesanti. Probabilmente ci si arriva per una serie di coincidenze, no? Cioè è chiaro che devi avere degli skill, no? Dal punto di vista musicale, no? Sono dei musicisti grandissimi, esatto, big musicians. Esatto. E poi devi anche avere delle coincidenze magari fortunate che ti aiutano. Dai, è un mix tra skill e anche coincidenze fortunate. Jesus Street e God's Land, è chiaro che abbiamo di fronte, almeno nel titolo, c'è qualcosa di divino. I'm very interested in religion, but I'm not religious. Mi interessano molto le religioni, anche se io non sono un credente. Non pratico nessuna religione, però mi interessa capire, ad esempio, come mai in molti conflitti le due parti in causa sono convinti che Dio sia dalla loro parte. È una dicotomia significativa. That's the dichotomy. Oh, I think they do. Well, there you go, yes. Qual è il significato di Looking for America? Back in the days of Dire Straits, an American photographer. All'epoca dei Dire Straits, un fotografo mi raccontò che era stato mandato dalle forze armate americane a scattare immagini in Iraq. Era rimasto lì un paio di settimane. Doveva tornare a casa e proprio quel giorno sarebbe tornato in America uno squadrone di F-16. Quindi lui tornò a bordo di un F-16. Stavano volando sull'Atlantico. Appena la costa americana apparve all'orizzonte, il capo dell'equipaggio mise la nostra Walk of Life e tutti cominciarono a ballare. La canzone racconta proprio questa vecchia storia. And that's what the song is about. Phil, ma è vero che tu hai suonato con Battisti e con il Nastro Rosa? Yeah. La chitarra è tua? Yeah, that's me. 1980. Sì, sono io. 1980. Battisti venne a Londra per realizzare un disco con il mio amico Jeff Wesley, grande produttore e arrangiatore. Era un lunedì piovoso e io dovevo andare dal dentista. Ho suonato due volte quell'assolo. Ci sono due take nella registrazione. C'è a un certo punto una dissolvenza incrociata, ma non si sente. To play that solo, and we did two takes, and ho suonato mezz'ora e poi sono andato dal dentista. Half an hour. And then I went to the dentist. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con il Legacy. L'appuntamento con 140 caratteri ogni sabato alle 15. Noi ci ritroviamo tra un'ora con Radio.